Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute, rientrando dopo il GR di Radio Popolare in diretta con Radio Città Fujiko al Breakfast Club, che anticipa la rubrica In Scena. Tanti sono i contenuti, per cui abbiamo deciso di approfittare anche del giovedì. Per quanto riguarda il weekend, ITC Teatro di San Lazzaro, precisamente per la giornata di sabato 18 novembre alle ore 21, l'arrivo del collettivo della compagnia Unterwasser per lo spettacolo Untold, ideazione, creazione, performer Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Cagno. Sarà per la prima volta la ATC, il gruppo Unterwasser, con Untold, come ho già ripetuto più volte per quanto riguarda questo non detto, ma sarebbe una ripetizione ulteriore, come vi ho già detto, il non detto, per cui ho preferito insomma addentrarmi in altre descrizioni. Ma come si può dire quello che non è ancora stato detto e non può essere elaborato e risolto dall'ombra e certamente dal rimosso, dove emergono crepe e incongruenze. Gli elementi nascosti lasciano segni, messaggi premono sulla superficie e chiedono giustamente di essere messi in luce. Per quanto riguarda in mostra, viene in mente il movimento dei macchiaioli che appunto lavoravano su questi chiaroscuri. E per quanto riguarda il teatro, invece, il lavoro tra la luce e l'ombra, per mettere in evidenza quello che è untold, quello che non è stato detto. È un viaggio introspettivo, è un'accurata ricerca sulla potenzialità, come vi ho anticipato, del teatro d'ombre. È una proiezione a vista di corpi, oggetti, un'illusione e poi lo svelare dell'artificio che convivono in un palcoscenico, dal linguaggio, dal teatro virtuale che si fonde tra l'altro con una colonna sonora originale che diviene ovviamente parte integrante della drammaturgia. È uno spettacolo raffinato e frutto di un'intensa ricerca, allo stesso tempo con tanta poesia. Un itinerario esistenziale che ci porta verso una presa di coscienza. È un teatro di figura a cura di Unterwasser, molto particolare, compagnia tutta al femminile, formata da tre formidabili teatranti di cui vi ho dato i nomi prima, che mostrano come si possa fare teatro ad alto livello con le ombre, e quindi già da questa particolarità motivo ancor più di interesse, oltre che per la narrazione anche per il palcoscenico, la musica, non detto il chiaroscuro dell'ombra che risalta poi con la luce, il contenuto di uno spettacolo che sarà sabato 18 novembre 2023 alle ore 21 a Teatro ITC San Lazzaro in via Rimembranze 26 a San Lazzaro di Savena. Ho voluto anticipare in questo modo la rubrica In Scena di domani, che tra l'altro sarà ricchissima, e non volevo assolutamente perdere questa piccola clip per dare attenzione all'ITC Teatro. Compagnia collettivo Unterwasser, Untold, cioè non detto, sarà lo spettacolo per il weekend a ITC Teatro. We'll be right back. Ah, ma dove vuole il breakfast club arriva a dare la sveglia, anche se mi pare che siamo abbastanza lontani da Bologna, ma arriveremo a San Lazzaro per la giornata di sabato 18 novembre, anzi per la serata. ITC Teatro di San Lazzaro, per quanto riguarda il collettivo, la compagnia Unterwasser, con noi in diretta telefonica Aurora Buzzetti. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ce l'abbiamo fatta. Io ho dato qualche informazione generale su Untold, non detto, l'ho paragonato addirittura, visto che tra poco parleremo d'arte e di grandi mostre, al movimento dei macchiaioli, no? Che tra luci e ombre mettevano in risalto con l'aspetto cromatico il contenuto. Beh, insomma, c'è qualche attinenza a tutto ciò, Aurora? Beh sì, grazie intanto dell'accostamento. Bello, vero? Sono molto poetico. Beh sì, diciamo che poi per quanto riguarda il nostro lavoro, appunto questo genere di accostamenti paralleli con altri linguaggi artistici è sempre, cioè in qualche modo esce sempre, anche noi piace, ecco, dare uno sguardo ad altre forme artistiche. Chiaramente abbiamo i nostri riferimenti, certo, assoluti, e sì, questo è un lavoro che, come dici appunto, attraverso l'utilizzo di luci e ombre cerca di appunto mettere luce, dare un focus su alcuni elementi che riguardano noi tutti. È un viaggio introspettivo, sì, certo, innanzitutto. Posso permettermi di chiederti quali contenuti mette in evidenza senza svelare troppo? Sì, diciamo che questo lavoro, l'idea di questo lavoro è nata nel 2019. Noi avevamo già iniziato una ricerca sul teatro d'ombre, avevamo già prodotto uno spettacolo interamente con questo linguaggio, a seguito del quale siamo state invitate da Antonio Latella a prendere parte all'edizione 2020 di Biennale Teatro. E lui come start, diciamo, come spunto per i lavori, aveva dato una parola chiave, che era censura, intesa nel più largo senso possibile, cioè quindi ha lasciato noi liberi di esplorare la cosa come volevamo. Da lì quindi è partita la nostra ricerca. Noi generalmente tendiamo, per affinità, ecco, tra noi tre, tendiamo a lavorare e ad andare appunto a scavare un po' in quelli che sono gli aspetti intimi della sfera emotiva e capire come la relazione con il mondo si svolge, quali sono i meccanismi, quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi, e dove, e anche cercare quelle che sono le, tra virgolette, le soluzioni, no? Alle problematiche che viviamo tutti appunto in questa relazione con il mondo. E quindi in questo caso ci siamo concentrate, ci siamo messe in gioco per la prima volta a livello personale, nel senso che per la prima volta noi siamo in scena non solo come animatrici di oggetti, ma anche come personaggi, per cui in scena ci sono tre solitudini di partenza, sì, raccontate, narrate con pochissime parole che danno soltanto una traccia allo spettatore per capire cosa seguire, e poi attraverso l'utilizzo delle immagini e la musica viene appunto fatto questo percorso all'interno, sempre più all'interno della persona, partendo da proprio lo spazio fisico e quindi l'abitazione e poi una stanza e poi il mondo interiore, e andando a capire quali sono le problematiche che ci tengono appunto separati in qualche modo dall'esterno. E io vedo anche due righe portate da una nostra redattrice, che è Ilaria Cecchinato, con un linguaggio originale che sfiora l'incanto della favola. Unterwasser racconta un comune percorso di liberazione da ingombranti e censori e costruzioni mentali, quelle che conducono a una rischiosa chiusura in se stessi, al nichilismo. Mostri che sembrano dirci: si rivelano più docili se affrontati insieme. Questa è la breve così presentazione di Ilaria. Che non avrei potuto dirlo meglio, ecco. ma Ilaria ha avuto un ottimo formatore. Basta, no, non voglio andare in autocelebrazione, ci mancherebbe, anzi io ti ringrazio tantissimo per questa clip di presentazione per quanto riguarda Unterwasser, Untold, che grazie. Sarà sabato 18 novembre a ITC Teatro a San Lazzaro, per la precisione alle ore 21. Chiudiamo con due parole sulla musica, che mi ha colpito molto questo aspetto. Puoi dirci qualcosa di più velocemente? Beh, la musica nel nostro lavoro è un elemento fondamentale e generalmente le scelte sulla musica seguono di pari passo la costruzione della drammaturgia, e in questo caso le musiche sono originali e sono state composte da Poscio, con poi interventi di Jacopo dell'Abate, Valeria Bianchi e Emanuela Belmonte, e appunto la musica è l'elemento che si fonde completamente con l'andamento delle immagini, con il susseguirsi delle scene, diventa appunto un fondamento anche quello della drammaturgia, e le sonorizzazioni alternano composizioni musicali più diciamo più melodiche e complesse, chiaramente ad ambientali, anche quelli costruiti ad hoc. Cos'altro dirti? Che è un'integrazione perfetta per risaltare determinati aspetti e andare in intersezione. Sì, della narrazione. Soprattutto permette allo spettatore di entrare in quello che sta guardando, avendo chiaramente delle suggestioni complete, amplificate, ma allo stesso tempo permette ad ognuno di poter aggiungere o interpretare in modo personale quello che sta vivendo e quello che si sta svolgendo sulla scena. Questo è un elemento a cui noi teniamo molto, la possibilità di lasciare allo spettatore dei vuoti che non sono vuoti, semplicemente una volta entrati nel mood emotivo del lavoro, ognuno ci mette anche del proprio, e quindi un'interpretazione non sarà mai identica a quella di un altro, e questa è una cosa che noi abbiamo sperimentato in quasi tutti i nostri lavori ed è un qualcosa a cui teniamo molto. Bene, appuntamento a San Lazzaro. Io ti ringrazio tantissimo per sabato 18 novembre alle ore 21, Unterwasser Untold. Per quanto riguarda la voce, Aurora Buzzetti in presentazione qua su Radio Città Fujiko per il last minute odierno. Io ti auguro una buona giornata, ora puoi prendere il caffè così che... Ti ringrazio, grazie a te. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Lui è Greg Osby, un musicista che abbiamo ascoltato al Torrione il sabato appena trascorso. Ne ascoltiamo qualche fraseggio dal suo ultimo lavoro che ha portato anche al Jazz Club Estense e poi in mostra sui 103.1 di Radio Città Fujiko. A tra poco. Thank you.